Ed io prendo la parola per ringraziare vivamente il professor Prodi in qualità di direttore dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento e Monsignor Vicario Generale, istituzioni che hanno colto subito la proposta di un incontro di archivisti e cancellieri delle curie vescovili e delle diocesi. Delle 15 arcidiocesi e diocesi della regione pastorale delle Tre Venezie, per un incontro e per uno scambio di esperienze. Io li ringrazio vivamente per tutta la dovizia di mezzi che hanno messo a disposizione. Ringrazio in special modo il professor Turchini, la dottoressa Nubola, don Livio Sparapani, che con la sua generosità e con la sua bontà rende possibile le cose. E vengo subito all'argomento sul quale mi permetto di richiamare un po' la riflessione dei colleghi archivisti e cancellieri. Perché, come diceva il professor Prodi, siamo in un'era in cui si può scoprire quella che nel codice benedettino piano benedettino, veniva considerata una res, sia pur preziosa, l'archivio, a quello che invece nel codice post-conciliare Giovanni Paolino dell'83 viene considerato, viene detto come un bene che è proprio rappresentato, costituito da una tradizione conservata e trasmessa. E per questo motivo io ho rivolto l'invito ad archivisti e cancellieri, perché la realtà dell'archivio oggi è in forte movimento, in trasformazione. Certamente l'archivio e conservazione di documenti antichi. Ma esso rappresenta la sedimentazione di tanta documentazione che viene ancora oggi prodotta, perché l'istituzione è storicamente viva, la diocesi, per parlare delle curie vescovili, che sono state e sono ed operano. E quindi un primo grande problema che si impone a tutti quanti noi che siamo in qualche modo responsabili, è quello dell'archivio che si è fatto e dell'archivio che si sta facendo, archivio storico e archivio corrente. Dell'archivio storico responsabile è l'archivista, dell'archivio corrente sono protagonisti tante enti, tante figure. Perché c'è una crescita istituzionale all'interno del centro operativo della diocesi, ma che certamente hanno nel cancelliere una figura di riferimento, se non decisiva, comunque sia notevole. Questo è un primo problema che vi sto presentando, per entrare subito nel nostro incontro che è stato poi richiesto nell'ultima assemblea dell'associazione, promuovere incontri regionali per coinvolgere e per soprattutto far germinare comunicazione. Perché oggi la realtà degli archivi è in forte movimento, significative iniziative li caratterizzano. Se l'archivio storico diocesano di Trento ormai è una bellissima realtà, che segue quella che ha accennata, per esempio, il professor Prodi, Bologna, Macefalù, Monreale, Napoli, ormai la geografia degli archivi storici aperti agli studiosi, diventati centri di ricerca, istituti culturali, comincia ad aumentare. Questo è segno che le chiese particolari stanno prendendo consapevolezza di questo compito che hanno di conservare tracce del passato e di consentire dalla riflessione su di esse di germinare nuove originare nuovi processi culturali, di carattere storico senz'altro, ma senz'altro anche di carattere pastorale, perché nell'archivio diocesano, come in tutti quanti gli archivi ecclesiastici, non c'è soltanto qualcosa che riguarda l'esterno, ma soprattutto quello che riguarda la missione fondamentale della parrocchia, della diocesi, per nominare le istituzioni territoriali fondamentali, quanto invece della loro azione pastorale, cioè della fatica, della missione di educare alla fede, di celebrare cristianamente la vita e di infondere orizzonti operativi di carità. E questo in fondo l'archivio come va riscoperto? Va riscoperto nella sua origine nativa, nella sua origine essenziale, laddove si conservano le tracce di quello che si fa, di quello che si propone, di quello che si intraprende per la educazione cristiana delle popolazioni. In questo senso ritorna il problema archivio storico, archivio corrente. Perché oggi la stagione che stiamo vivendo è ricchissima di attività. Tra 50 anni di tutto questo fervore di iniziative, di queste ricerche ansiose, di questi progetti audaci, di questa ansia, tra 100 anni ne rimarrà la memoria a conforto di quelli che dovranno poi prolungare il compito che da Cristo è stato affidato a tutte quante le comunità. Come vedete, il problema sta diventando senz'altro culturale, perché è cultura questa. Questa è seria ricerca storica, ma al tempo stesso sta diventando un problema ecclesiale, di una Chiesa che nella memoria trova motivi per continuare la inculturazione della propria missione nelle realtà socioculturali delle popolazioni stesse, che essa poi raccoglie ed esprime. Ecco, l'incontro non vuole essere né una conferenza né una lezione, ma vuole svolgersi proprio, io lo propongo, a livello seminariale, di interventi, perché loro che hanno accolto l'invito di rimanere anche stasera e domani, e quindi di pernottare, potremmo anche dialogare, conversare anche questa sera, cena, dopo cena. Ma qui è bene mettere un po' le premesse, proprio per dare anche alla più ampia cerchia dei presenti la dimensione di istituto culturale vivo, qual è l'archivio ecclesiastico.